Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 411, nella quale parleremo di pitoni vegetariani, bracconieri braccati, cucinatori di suoni, misticismo circense e mistificazioni nutrizionali. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Fenomeno, fenomeno, fenomeno, fenomeno, la so tutta quando dette brave viva l'Italia. Nello scorso mese di ottobre, 8 cacciatori italiani residenti nelle province di Brescia e Vicenza sono stati fermati all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio con 1119 uccelli morti chiusi in valigia. Si trattava del frutto delle loro battute di caccia in Est Europa. Tra i pennuti ritrovati tante le specie protette. I piccoli uccelli erano stati sistemati all'interno di grandi valigie insieme a placche refrigeranti per meglio conservare la carne. Il commercio illegale di esemplari di flora e fauna protetti in base alle norme contenute nella Convenzione di Washington è un traffico decisamente fiorente dopo quello della droga, delle armi e della tratta di esseri umani. Ma non si può tacere di fronte a questo furto di biodiversità e al business milionario che ruota attorno al turismo venatorio. Questa non è una tradizione, anzi, questa vicenda, oltre alla violenza verso gli animali, rappresenta anche una pessima figura dell'Italia a livello comunitario. Leggero tu fai, non senti quella voce che dice. Ancora una notizia sconcertante, ancora a Nord Italia. Due bracconieri, padre e figlio, in possesso di una regolare licenza di caccia, sono stati fermati dagli agenti della Polizia Provinciale di Bergamo, mentre erano intenti a cacciare caprioli e cinghiali nella riserva naturale regionale e oasi WWF di Val Predina. I reati ipotizzati sono molteplici, vanno dall'introduzione di armi in area di riserva naturale all'esercizio di caccia in zone di divieto. Ribadiamo che i due avevano regolare licenza di caccia, proprio per sottolineare la contiguità tra cacciatori e bracconieri. A casa dei due uomini, gli agenti della polizia provinciale hanno trovato 150 uccelli, tra i quali alcuni appartenenti a specie protette come frosoni, fringuelli, pettirossi, nonché la pelle di una femmina di capriolo da poco scuoiata. Infine sono state rinvenute anche alcune armi che non erano state denunciate. Il WWF si costituirà parte civile. Credevi cacciare, ma adesso la preda sei tu. Credevi cacciare, ma adesso la preda sei tu. Con continuiamo a divagare tra caccia e bracconaggio, due attività troppo spesso imparentate. Lo abbiamo detto più volte ed è un mantra della non violenza: non sempre ciò che è legale è anche giusto. A riprova di questo basta provare a immedesimarsi in un cinghiale o in un colombaccio. Che differenza può fare se a rubar loro la vita è un cacciatore che si attiene alle regole oppure un bracconiere che le viola consapevolmente? La nostra redazione è impegnata non solo a combattere l'illegalità, anche e soprattutto l'ingiustizia. È con questo spirito che la nostra Francesca De Matteis ha appena partecipato a un campo antibracconaggio della LAC, regalandoci questo bel servizio. Gabriele, mi senti? Cambio. Senti? Cambio. E questa potrebbe essere una zona lacci o trappole ad aria? Qui vicino ci sta il fiume, quindi potrebbe essere cinghiali, lacci. E dove stiamo andando adesso? Che cosa stiamo cercando? Stiamo sulle tracce di un vecchio sentiero dove trovammo una miriade di lacci e purtroppo anche un cinghiale appena finito nel cappio, quindi stiamo cercando di ritrovare la zona e di vedere se il bracconiere ha rimesso nuovamente i lacci. Ci si sveglia la mattina quando il sole non è ancora sorto, una veloce colazione, intanto si preparano i panini per la giornata, perché si starà fuori tutto il giorno, per una settimana intera, con gli attivisti della Lega Abolizione Caccia, cammineremo per ore e per molti chilometri ogni giorno nei boschi del Sulcis, nel sud della Sardegna. Cercheremo trappole, lacci e cappi messi dai bracconieri in questo luogo selvaggio, un luogo che dovrebbe essere un paradiso per gli uccelli migratori e per gli ungulati, ma che invece si è trasformato da più di 30 anni in una trappola mortale proprio a causa del bracconaggio. Insieme a Stefano Deliperi, delegato LAC Sardegna, capiamo qual è al momento la situazione nel Sulcis. Ma quest'anno purtroppo è stato un anno di grande siccità in Sardegna, praticamente da marzo non ci sono state piogge e questo ha determinato una gravissima situazione sotto il profilo proprio della sopravvivenza di molte specie animali. Ne hanno sofferto parecchio, tant'è che la regione Sardegna da giugno addirittura ha dichiarato lo stato di calamità naturale, anche per le specie più a rischio, soprattutto il cervo sardo. Perché ultimamente ci sono stati numerosi casi proprio di esemplari ritrovati morti letteralmente di fame. Quest'anno, essendo appunto praticamente ancora non iniziato il passo della avifauna migratoria, quel bracconaggio che per fortuna è in fase calante comunque, si è spostato soprattutto sugli ungulati, cervo e cinghiale. E questo ha determinato un'ulteriore negativa comunque situazione per quanto riguarda delle specie che sono già a rischio per ragioni appunto di carattere naturale, cioè la siccità. Quest'anno sicuramente si è potuto riscontrare un calo ulteriore del fenomeno del bracconaggio. Non è più come poteva essere 10-15 anni fa, quando addirittura venivano vendute le grive, praticamente gli spiedi di tordi e di storni presi proprio con metodi illeciti davanti ai supermercati, davanti ai mercati comunali. Questo non accade più. Un po' perché appunto per ragioni anagrafiche i bracconieri ormai sono anziani e anche per ragioni anagrafiche qualcuno non c'è più, ma anche perché viene ritenuta un'attività tutto sommato poco redditizia e molto faticosa, soprattutto in questi periodi di crisi. Quel bracconaggio che ancora c'è, una parte è sicuramente dovuto proprio a ragioni di carattere alimentare. Integra la dieta. Sono cresciuta così, è la mia vita. Non voglio soffrire più, anche se soffri tu. una settimana di cammino e di ricerca, abbiamo fatto il punto insieme a Maurizio, attivista della LAC, che da anni ormai partecipa ai campi antibracconaggio organizzati dall'associazione. Il campo è stato abbastanza positivo perché le zone perlustrate quest'anno non abbiamo trovato praticamente nulla. Perdonami, per nulla che cosa si intende? Cioè, quali sono gli strumenti tipici del bracconaggio in Sardegna? Allora, noi cercavamo soprattutto andole, cosiddette andole, che sono sentieri lunghissimi, chilometri, che vengono utilizzati dai bracconieri per la cattura soprattutto di avifauna e ungulati anche. In questi casi non abbiamo trovato nessun segno recente di queste trappole, andule bonificate già da anni e non più utilizzate dai bracconieri. Quindi parliamo di trappole aeree, quelle con i gancetti sui rami e poi appunto i lacci. Esatto, quindi questo fa ben sperare anche per i prossimi anni in un calo deciso e soprattutto della cattura della avifauna. Probabilmente ci sarà un successivo incremento del bracconaggio magari in primaverile, però non sicuramente con questi metodi di cattura, forse con le reti in qualche altra zona. Francesca De Matteis da Capoterra, Sardegna. Invitiamo tutte le persone in ascolto a unirsi ai campi di antibracconaggio. Sono delle belle esperienze a contatto con la natura che svolgono anche una importante azione di controllo e difesa del territorio e della fauna. Per informazioni potete contattare le principali associazioni che li organizzano e che sono CABS, LAC, LIPU e WWF. Trasformato da cacciatore ad amico degli animali, è il protagonista della rubrica Speriamo che sia vegan di questa settimana. La rubrica che vi propone una scelta di libri per i bambini che amano gli animali. Ne abbiamo già presentati 7 e questo è l'ottavo. Trovate tutta la serie nella homepage del nostro sito www.restiamoanimali.it. Breve, semplice ma efficace. Questa potrebbe essere la sintesi di Il Pitone Pappatutti, il libro scritto da Claudia Palombi e illustrato in stile tragicomico da Gloria Francella. Quel pitone che porta in sé un po' di animale umano e non. Umano perché è invadente anche nello spazio delle pagine, prepotente, devastante, annichilente di tutto quello che trova lungo la strada, ma che è anche un animale che si ribella, lui insieme agli altri suoi compagni che prima ha mangiato e che, parafrasando uno slogan ormai inneggiante in ambiente veg, sono amici e non cibo. Ed ecco che allora quel mini libro che è Il Pitone Pappatutti riesce a condensare in poche pagine davvero un po' di tutto, veicolando nei più piccoli concetti decisamente elevati, dal passaggio a un'alimentazione cruelty free, dalla volontà e resistenza animale all'anelito della libertà contro ogni gabbia. La storia infatti ha inizio quando in un bel bosco verde pieno di animali arriva un giorno un pitone che era fuggito dallo zoo perché non ne poteva più di stare in gabbia e voleva conoscere un po' di mondo. Striscia di qua, arrotolati di là, ad un certo punto gli venne fame. Incontrò un coniglio e se lo mangiò in un sol boccone. Passava un gatto per di lì, lo prese al volo e se lo ingoiò. Una grassa papera gli fece gola e senza indugi la trangugiò. Sullo stagno saltava una rana ed un balzo se la pappò. E per finire toccò la farfalla. Slap! Il pitone aveva mangiato davvero troppo, scelse un comodo ramo e cominciò a digerire con calma. Intanto gli animali cercavano un modo per uscire dal corpo del pitone. Lì dentro si stava stretti e non si respirava. Così si misero tutti a saltare e a gridare. Salta e grida, grida e salta, al pitone venne mal di testa e di pancia, finché disperato aprì la bocca e tutti gli animali uscirono, finalmente liberi e contenti. Anche il pitone stava meglio, si sentiva più leggero, tanto leggero che gli era tornata la fame. Allora ciascuno degli animali gli diede un po' del suo cibo. Da quel momento divennero tutti amici e andarono in giro per il mondo insieme e ci vanno ancora. Il pitone non tornò mai più in gabbia e divenne vegetariano. Pitone Pappatutti di Claudia Palombi, disegni di Gloria Francella, per bambini dai 4 anni, Giunti Kids Edizioni, 32 pagine, 5,90 €. Pitone Pappatutti che diventa vegetariano è un perfetto testimonial della nostra rubrica settimanale dedicata alla cucina cruelty free, il pasto gentile. una rubrica curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, un libro che potete trovare in libreria o ordinare via internet per i vostri regali di Natale. L'autore del libro e chef Gabriele Palloni in questa puntata è anche autore del montaggio musicale. Sentiamo la sua audio ricetta della settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ancora una volta siamo tornati a parlare di caccia. La ricetta che vi darò oggi è un po' più elaborata, perché se avete del tempo da occupare, deponete fucili, richiami, esche e suppellettili vari, indossate un bel grembiulino colorato e mettetevi ai fornelli. E per non reprimere la vostra virilità, realizzate un bel piatto di canne mozze e pallettoni su foglie di zucca e polli. Gli ingredienti per 4 persone sono 8 lasagne di pasta da lasagne senza uova, 200 g di ricotta di soia, 100 g di panna vegetale, un cucchiaio di farina di ceci, un cucchiaio di farina di riso, 500 g di spinaci o bietole, della noce moscata, mezzo litro di besciamella vegetale, nocciole, 400 g di polpa di zucca gialla, 2 porri, olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, rosmarino, sale e pepe. Lessate e strizzate bene gli spinaci. A parte, passate nel mixer la ricotta con la panna e quando si saranno ben amalgamate, aggiungete gli spinaci tritati finemente. Unite la farina di ceci, la noce moscata e aggiustate di sale e pepe. Fate un'incisione verticale per tutta la lunghezza del porro e ottenete dei rettangoli. Tagliate la zucca a fette e ricavate dei rettangoli sottili ma piuttosto grandi. Scottate il porro in acqua salata e a parte passate la zucca nella farina di riso e fatela rosolare in padella con uno spicchio di aglio in camicia e un rametto di rosmarino che toglierete a fine cottura. A questo punto scottate le lasagne di pasta in acqua salata e scolatele. Confezionate dei cannelloni, 2 per ogni porzione, riempiendo la pasta con la farcia. Velate con la besciamella e gratinate in forno guarnendo ogni cannellone con una nocciola intera. Nel piatto disponete un rettangolo di porro sopra il quale adagiate uno di zucca leggermente più piccolo. Infine, sopra la zucca sistemate 2 cannelloni con le nocciole ben in vista. Rotta distruzione, rotta distruzione, rotta la fortuna, viaggio sulla luna. Ricordiamo che nel nostro blog www.restiamoanimali.it potete trovare in audio, ma anche in forma di testo scritto, almeno 170 ricette cruelty free. Basta digitare nell'apposito campo search il titolo della rubrica Il pasto gentile. Yeah. Venite al circo, il circo è vita e speranza. Dietro ogni spettacolo c'è tanto sacrificio e amore per il proprio lavoro e per gli animali che sono parte integrante di questa grande famiglia. Lo ha detto padre Giuseppe Rosati, frate cappuccino della comunità del Santuario della Madonna di Belvedere, dall'altare improvvisato sotto il tendone del circo Oscar Orfei a Città di Castello. Padre Rosati, da oltre 37 anni, si muove al seguito delle famiglie circensi in ogni angolo d'Italia e celebra la messa in mezzo a loro. «Sono spesso andato dietro questi tendoni, nei camerini, a parlare, a vivere con loro giornate di sacrifici e passione», ha detto padre Rosati, «e ho scoperto gente con sentimenti veri, amore per gli animali e rispetto per gli anziani che sono sempre con loro». La nostra redazione non benedirà mai il circo con gli animali. Com'è scontato che sia, noi pensiamo che l'arte circense possa, anzi debba, prendere le distanze da qualsiasi forma di coercizione e sfruttamento verso le persone e verso gli animali. A questo proposito vi proponiamo un servizio registrato durante il presidio informativo tenutosi il 5 novembre scorso ad Inzago davanti al tendone del circo Chino. Per i circhi la svolta anche in Italia? Forse. Con 265 voti a favore e 13 contrari, lo scorso 8 novembre è arrivato il sì definitivo alla legge delega di riordino del settore dello spettacolo. E all'interno è prevista anche una norma specifica sui circhi, che prevede il graduale superamento della presenza di animali. Su quale sia il significato di graduale e in che tempi e termini, al momento non è dato da sapere. Per questo associazioni animaliste come la LAV, pur manifestando soddisfazione per un passo avanti dopo decenni di silenzio, promette che vigilerà affinché questo principio venga applicato dal ministro Franceschini o dal suo successore, senza scappatoie e con una data certa. Intanto però i circhi possono continuare a piantare i loro tendoni. A Inzago, in provincia di Milano, c'era il circo Chino, con gli animali costretti a esibirsi, cammelli, dromedari, leoni, capre. Di fronte al tendone, però, c'era anche la protesta di alcuni attivisti dell'associazione Andiamo Oltre, per chiedere un circo senza sfruttamento. Il presidio è cominciato con un imprevisto, cioè con il responsabile del circo che è intervenuto, chiedendoci in modo piuttosto veemente di non utilizzare il megafono e di tenerci a 100 metri dall'entrata del circo. Sono cose che riteniamo essere contrarie al diritto di manifestazione di ogni cittadino italiano, quindi con perseveranza siamo rimasti qui davanti a portare le nostre ragioni. Non si arriva a un punto di incontro con i circensi, ma rispetto alla legge che cosa pensate? Sì, in realtà non si parlava di eliminazione neanche nella prima versione, però di fatto, anche se grammaticalmente può sembrare un sofismo, in realtà c'è stato un piccolo passo indietro. Questo però non ci fa demordere, perché Eurispes mostra che oltre il 70% degli italiani è contrario ai circhi con animali, quindi diciamo che culturalmente il paese è pronto. Certo, lo sarebbe anche per abolire la caccia, lo sarebbe anche per abolire la ricerca con gli animali, però di fatto abbiamo la forza del parere popolare dalla nostra, e manifestazioni, eventi come questi può portare a riflettere anche quella parte della popolazione che invece ancora entra in queste realtà sostenendole col biglietto d'ingresso. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 412 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.